Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nello scorso autunno 2012 Sandy, il più grande uragano atlantico mai registrato, è piombato su New York dopo aver fatto danni e vittime in altre 5 nazioni. I venti che spiravano verso terra, uniti alla bassa pressione atmosferica che alleggerisce il peso della colonna d'aria sulla superficie del mare, ha causato un'onda di piena di 3,3 metri che ha invaso la città. L'acqua di mare, altamente corrosiva, si è insinuata anche nelle metropolitane, causando 5 miliardi di dollari di danni agli equipaggiamenti elettrici. In tutto si parla di circa 20 miliardi di danni nella sola New York e 63 miliardi di danni in tutti gli Stati Uniti. Ma la brutta notizia è che, secondo il New York City Panel sul Climate Change, Sandy è solo un campanello d'allarme. A causa del cambiamento climatico, entro il 2100 la frequenza degli uragani tipo Sandy potrebbe infatti salire da un episodio ogni 50 anni fino a un episodio ogni 2. Ma non basta, perché nel frattempo salirà anche il livello del mare a una velocità pazzesca. Nello scenario di rapido scioglimento dei ghiacciai, che per oggi sembra più plausibile, parliamo di quasi un metro e mezzo. Per questo lo scorso giugno il sindaco Bloomberg ha presentato un piano da 20 miliardi di interventi per difendere la città, basato su argini, dune di sabbia e zone umide, ma è chiaro che non sarebbe questo piano risolutivo. Nella grande mela però ci sono altri che, oltre al sindaco, stanno cercando di immaginare come salvare la città dalle acque dell'Atlantico. Sentiamo. Jaron Hertz, a lungo consulente del Dipartimento di Pianificazione Urbana, è l'unico ad avere presentato un piano complessivo per salvare New York dall'innalzamento dell'oceano. È un mix di interventi incredibilmente ambizioso. Per cominciare, si tratterebbe di rialzare gli ingressi delle metropolitane rispetto al livello della strada e di dotare i tunnel di immensi airbag da gonfiare in modo che formino un tappo in caso di allagamento. Sarebbe necessario stabilire da subito regole edilizie che prevedano nuovi edifici a prova di allagamento, mentre un po' alla volta gli impianti, come le caldaie e le centraline elettriche presenti nelle cantine di tutti gli edifici di New York, dovrebbero essere spostati al primo piano per metterli al sicuro dall'acqua. Agli stessi accorgimenti dovrebbero essere sottoposte anche tutte le infrastrutture critiche, come centrali elettriche, ospedali, caserme, eccetera. Nel medio-lungo periodo, infine, sarebbe necessario rinforzare i moli ed erigere scogliere per rallentare l'acqua e, infine, erigere vere e proprie barriere. Hertz immagina barriere retrattili, simili a porte scorrevoli installate tra i pilastri di un'autostrada sopraelevata che circondi tutta la città, le quali si chiuderebbero nei casi più gravi. La proposta di Jaron Hertz è molto articolata, ma di difficilissima attuazione, anche a causa del decentramento tipico delle istituzioni statunitensi che frammentano le competenze in materia di protezione del territorio. Ma c'è anche un'altra alternativa. Questa alternativa consisterebbe nell'erigere delle barriere mobili che, a fronte delle ondate di marea più alte, possano chiudere l'ingresso alle acque oceaniche prima che invadano la città. È la stessa filosofia del MOSE. Sentiamo. Il progetto di sbarramento dell'Oceano Atlantico, verso cui le autorità newyorkesi sembrano maggiormente orientate, è stato avanzato dalla società privata Alcrow Group ed è costituito da due barriere, la principale delle quali sarebbe lunga oltre 8 chilometri e isolerebbe dall'Atlantico tutta la baia di New York. Il progetto, da oltre 6 miliardi di dollari, può apparire mastodontico, ma qualcosa di analogo è già stato realizzato per proteggere San Pietroburgo, dove dal 2010 è entrato in funzione uno sbarramento lungo oltre 20 chilometri. Tuttavia, non mancano le critiche. Per prima cosa, una barriera simile potrebbe proteggere la città dalle ondate di alta marea, ma poiché resterebbe quasi sempre aperta per garantire il traffico navale, non servirebbe a nulla contro l'aumento del livello del mare. Inoltre, una volta chiusa la baia, ci sarebbe il rischio che le acque vengano deviate ai lati, allagando altre zone. Insomma, la sfida tra New York e il mare è solo all'inizio, mentre domani a Venezia verrà avviato per la prima volta ufficialmente il MOSE. Ormai i lavori per la realizzazione dell'opera sono oltre l'80%, noi saremo lì a Venezia e nella puntata di lunedì vi racconteremo com'è andata. Opera anche molto discussa, criticata, anche con alcune buone ragioni, il MOSE è tuttavia unico al mondo. Non a caso a New York sono interessati a saperne di più e hanno già preso contatti. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, puntata speciale sul MOSE.